Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura un flash sull'emergenza terrorismo declinata sul comparto dei trasporti. Era successo a Nizza a luglio, a Berlino prima di Natale, venerdì scorso di nuovo a Stoccolma. Un camion lanciato contro la folla, una strategia di morte e di terrore di fronte alla quale, al di là del lavoro dell'intelligence, è difficile difendersi. Un atto terroristico che pone in prima linea i mezzi pesanti e quindi chi li guida. Per questo il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè ha subito scritto una lettera aperta al commissario europeo Violetta Bulc per sollecitare un incontro urgente con i rappresentanti dell'autotrasporto dei vari paesi, attraverso il quale definire linee guida a garanzia dell'efficienza dei servizi di trasporto e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Dopo il Tire Day del 18 marzo, con carovane di mezzi pesanti in giro in decine di città, Unatras, l'Unione delle Associazioni di Categoria, alza il tiro e proclama il fermo nazionale. La data non è stata ancora fissata. Nel frattempo il sottosegretario Simona Vicari ha convocato le associazioni di categoria il 27 aprile al Ministero. Le principali questioni sul tappeto sono la concorrenza sleale praticata dai vettori esteri, il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, i costi minimi di esercizio, le nuove procedure per la revisione dei mezzi pesanti. Sentiamo il presidente di Unatras, Amedeo Genedani. L'esecutivo ha deciso di proclamare fermo a seguito del fatto che non sono arrivati i provvedimenti sollecitati più volte, non da ultimo con la manifestazione del 18, è arrivata la convocazione del sottosegretario Vicari, che ringraziamo per l'impegno che ci sta mettendo, però io penso che questo qui sicuramente sarà un incontro a cui andremo, che parteciperemo senza ombra di dubbio, però non può essere un incontro risolutivo, visto l'anno e mezzo già che stiamo portando avanti queste trattative con il sottosegretario, che ha fatto tutto il possibile, ma io penso che ci sia bisogno di un intervento molto più alto, a alti livelli, altrimenti si andrà al fermo. Si è deciso nello stesso esecutivo anche di sollecitare un confronto con tutte le forze politiche e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi adesso procediamo anche su questa linea che stiamo già portando avanti e attuando. C'è poi un'altra questione rimasta in sospeso, nonostante l'ok di Bruxelles arrivato ormai tempo fa. Riguarda il varo dei decreti per il mare bonus e il ferro bonus, i due incentivi a favore dei trasporti intermodali. Da mesi ormai si attende il via libera definitivo da parte dei ministeri interessati. Di mare bonus e ferro bonus e dei punti ancora da perfezionare della riforma dei porti ha parlato nei giorni scorsi a Livorno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio. L'occasione è stata il secondo forum sulla portualità e la logistica. Sentiamo Del Rio. Abbiamo il tema delle concessioni, su cui abbiamo un rimpallo da mesi e mesi con il Consiglio di Stato, e quindi spero che questa sia la volta buona, così come la definizione finalmente, come dire, in versione definitiva del mare bonus e del ferro bonus, che sono due incentivi che noi vogliamo prolungare negli anni e che ancora, per problemi di burocratici e di osservazioni ripetute, stanno ancora in attesa dell'ultimo miglio, diciamo. Quindi queste sono le due cose principali. Per quanto riguarda invece la forza degli investimenti e la capacità di investimento, sono molto soddisfatto, perché i programmi di RFI, i programmi con Autostrade, con ANAS e i programmi che abbiamo fatto con le autorità portuali sono programmi di investimento robusti, quindi che daranno veramente effetto sui nostri porti. Al forum di Livorno è stata anche l'occasione per focalizzare l'attenzione sul potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari lungo la dorsale tirrenica, un corridoio strategico per merci e persone anche in chiave europea. Ancora Del Rio. Stiamo lavorando per potenziare la direttrice tirrenica sia ferro che strada. Ormai l'analisi sul tracciato della tirrenica è quasi completato, stiamo raccogliendo le ultime osservazioni di cui dobbiamo tenere conto, perché la zona è ambientalmente molto delicata e quindi è una riflessione che diciamo merita il suo tempo, ecco, però siamo quasi alla fine. Un'altra opera importante per l'intero sistema logistico della Toscana e non solo è il cosiddetto scavalco della linea tirrenica, cioè la connessione ferroviaria tra il porto di Livorno e l'interporto Vespucci. Dopo vari rinvii, i lavori partiranno entro l'anno. Al nostro microfono il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Serve, diciamo, a far sì che il retroporto, chiamato oggi forse anche inappropriatamente interporto, diventi davvero un collegamento con tutta la logistica della Toscana, che in questa zona è importantissima. Questi lavori dovrebbero partire nel 2017, quindi sono lavori che avranno presto un inizio. E poi dopo, insomma, io sono a chiedere, lo farò al Ministro, che si facciano ulteriori investimenti. Non c'è caso in Italia in cui una regione abbia investito 600-700 milioni sui porti. Siccome ne sono andati tanti di soldi a Genova, a Savona, qualcosa di importante anche alla Spezia, ai porti dell'Adriatico, adesso anche noi chiediamo che, proprio secondo questa concezione che giustamente il Ministro Del Rio ha avanzato, di una portualità legata alla logistica, si facciano quegli investimenti ulteriori di logistica che già abbiamo ipotizzato per potenziare e fare del polo Livorno-Piombino una grande infrastruttura competitiva davvero a livello europeo. E veniamo direttamente ai lavori del forum sulla portualità organizzato a Livorno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da RAM, Rete Autostrade del Mediterraneo. È stato un momento di analisi e di confronto sulle prospettive del nostro sistema logistico nazionale, proiettato su scenari mondiali economici e politici in continua evoluzione tra opportunità e turbolenze. All'interno dell'area mediterranea, nella Blue Economy, siamo il paese leader. Nei nostri porti transitano 480 milioni di tonnellate di merci e nel 2016 la Blue Economy ha prodotto oltre 50 miliardi di euro di import-export. Siamo anche il primo paese al mondo per i trasporti RoRo, cioè il trasporto di autoveicoli e automezzi gommati. Nel settore gravitano 160.000 imprese con circa 1 milione di addetti. La sfida è intercettare i traffici, pensiamo per esempio alla nuova Via della Seta, sfruttando la nostra posizione geografica favorevole. Ma per farlo occorre un sistema infrastrutturale adeguato che sappia cioè competere efficacemente con le altre aree del continente a partire dai porti del nord Europa. Insomma, occorrono anche quattrini. Di qui la proposta lanciata al forum di Livorno dal presidente di RAM, Antonio Cancian, di istituire un fondo per la logistica da far gestire ad una società di gestione del risparmio come ad esempio Cassa Depositi e Prestiti. Lo abbiamo intervistato. Il fondo deve essere costruito prendendo la parte delle risorse che sono state, diciamo, messe per le infrastrutture in genere. C'è una parte che riguarda la portualità e la logistica e questa è la prima cosa. Quello che conta di più è creare attorno a questi quel blending finanziario che abbiamo detto prima, dove viene riempito con quelle possibilità che riguardano, diciamo, i finanziamenti europei. Perché noi abbiamo finanziamenti europei a disposizione, abbiamo delle possibilità di integrarli e poi la grande partita di un PPP col privato. Nella Blue Economy l'Italia non è sotto alcuni profili né seconda a nessuno, ora però ci sono delle sfide ineludibili da agganciare. Ma dobbiamo stare attenti che la Blue Economy riguarda un po' complessivamente ciò che succede in mare, no? Quindi ci sono tantissime attività che devono essere rispettose dell'ambiente, devono essere green, quindi una delle cose più importanti che noi stiamo mettendo in campo, oltre che attenzionare la navigazione, noi dobbiamo attenzionare anche, diciamo, la portualità, perché se noi partiamo da una portualità che è green smart, come la stiamo chiamando noi, credo che sia già importante sia la partenza che l'arrivo. Intercettare i flussi è una parola magica? La parola chiave è interconnettere all'interno dell'Europa, all'interno dell'Italia, ma soprattutto interconnettere l'Italia e l'Europa verso l'esterno. Questa è la parola chiave. Se noi non ci agganciamo ai grandi flussi internazionali, restiamo fuori da quelle supply chain che si stanno creando. Restare fuori da questo significa restare fuori dal mondo. E l'America, Trump? Non può esserci, diciamo, la libertà di mercato se poi da una parte viene intercluso. Io credo che questo non avvenga perché nei fatti, diciamo, è in atto, perché è difficile che qualcuno lo blocchi. Questo con internet ha sconvolto il modo di far politica. Quindi noi oggi andiamo oltre i nostri confini nazionali a prescindere dalle volontà che abbiamo di chiuderli. Con questo è tutto, a breve il GR, io mi fermo qui con hashtag autotrasporti, ci risentiamo lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.